Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ci ritroviamo tutti i giorni qui alle 18 per cominciare la nostra camminata quotidiana. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Cammino D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Quando un uomo tratta artisticamente la sua vita, il suo cervello e il suo cuore diventano una cosa sola. Oscar Wilde. Il cammino di Gigi D'Agostino. Un piccolo paese fuori dal mondo. Sera, sabato 2 dicembre, Gigi D'Agostino suona in Lombardia. A Capriolo, in provincia di Brescia, discoteca La Fattoria. Dalle ore 22, lascia che sia. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Che anno che è stato per noi. La mia definizione della bellezza è che è amore. Eppure implica anche la verità e il bene. E il bene. Il bene. Ma soltanto coloro che amano come amiamo noi possono comprendere il significato e la forza di tutto questo. Sophia Halford. Nascere l'amore in loro. È l'amore che ama l'amore. Che ama l'amore. Igino Giordani. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Giovedì 7 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona Pavia. Discoteca Metropolitan, a Casteggio, in Lombardia. Dalle ore 22, lascia che sia. ballar. Quiero ballar. Musica mental. Quiero ballar. Musica mental. Quiero ballar. Musica mental. Quiero ballar. Otra cosa, la mia mente è smusicosa. Non intendo otra cosa, la mia mente è smusicosa. No, così. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 333-64-67-662. Cammino di Gigi D'Agostino, alla faccia di chi ci vuole male e non distingue lo zucchero dal sale. Di perplessità. Mando la pubblicità. La situazione si fa bella, è suonata la campanella. Sì, sì. Dai, com'è che dici, G? Non giochiamo. Anelo all'eternità, all'eternità, perché lì troverò i miei quadri non dipinti e le mie poesie non scritte. Khalil Gibran. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Il cammino di Gigi D'Agostino. Dai, è poco sta cassa. Che melodia, Gigi D'Agostino questo sabato suona a Lombardia, a Capriolo, vicino Brescia, discoteca, la fattoria. Oh, dalle ore 22, lascia che sia. Musical, mental. Gigi D'Agostino. Musical, mental. Gigi D'Agostino. Tino. Musical mental. Tino. Mental. Un DJ con le pal. Dai una mezzata, vai G. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Ritengono perfetti unicamente perché sono meno esigenti nei propri confronti. Hermann Hesse. Gigi D'Agostino, tamarro bizzarro. Sei pronto, G? Roba de Scratch, roba dei DMC. Siamo stimando che sta suonando Gigi D'Agostino. Non sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Il 2 dicembre del 1965 nasce Luisa Corna, cantante e attrice. Le persone forti trovano sempre una via. Le persone deboli trovano sempre una scusa. Il cammino di Gigi D'Agostino, una buona occasione per diventare tamarri. Chi rinuncia alla libertà per raggiungere la sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza. Be friendly. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Ciao, sono Gigi D'Agostino. Tamarro bizzarro. Il 2 dicembre del 1978 nasce Nelly Furtado, cantante canadese. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente. Dicembre del 1915 vengono pubblicate le equazioni di campo di Albert Einstein, che costituiscono la summa della teoria della relatività generale. Se volete scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2, capito come? Il cammino di Gigi D'Agostino. Giovedì 7 dicembre 2006 Gigi D'Agostino suona Pavia, Discoteca Metropolitan, a Casteggio, in Lombardia, dalle ore 22. Lascia che sia. Gigi D'Agostino. Se il tuo lume brilla più degli altri, sii ne felice, ma non spegnere mai il lume degli altri per far brillare di più il tuo. proverbio orientale. D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. Cammino del Gigi D'Agostino. Il 2 dicembre del 1848, Francesco Giuseppe I diventa imperatore d'Austria. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. te. È come se tutto fosse strano, aria. No, è come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. Questo programma musical mental, olé, me gusta mucho más. È come se tutto fosse strano, aria, sulle mani. È come se tutto fosse strano, aria, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, sì. Aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, D'Agostino. Aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Aria, per Gigi D'Agostino. Sì, aria. Sì. Aria. Fermamos un momento. Parte lento, violento. E vi... un momento. Se riparte maestro, corteadro e il burattino. Gigi D'Agostino. La situazione si fa bella, è suonata la campanella. Thank you.

stai con me, perché